America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Donald Trump ha stravinto in Indiana, si è aggiudicato di fatto la nomination del Partito Repubblicano e a sorpresa Ted Cruz si è ritirato dalla corsa. Devo dire, sono stati sviluppi inattesi, alcuni di quelli che abbiamo visto ieri notte, come del resto sviluppi inattesi abbiamo seguito in continuazione nel corso di queste primarie elettorali per la Casa Bianca del 2016. Sentiamo adesso la voce della vittoria. Trump, appunto, che vince in Indiana e che, su stessa missione del presidente del Partito Repubblicano Reince Priebus, da oggi è il presunto candidato per la Casa Bianca del 2016. So it's just been an amazing evening. So again, I want to congratulate Ted Cruz. He is a tough, smart competitor. I want to thank my wife and my family. It's an incredible family. Ecco, avete sentito Trump, ha parlato dai suoi quartieri generali a New York. Tra l'altro molto interessante perché Trump rientra sempre a New York, dovunque si trovi cerca di rientrare a casa, vuole dormire appunto nel suo appartamento sulla Quinta Strada. E Trump che dice? Beh, dice: Ted è stato un duro avversario, ma ha fatto la cosa giusta ritirandosi. Noi a questo punto vogliamo portare l'unità del Partito Repubblicano. Uniti si vince. Il tono di Trump era un tono abbastanza sobrio e sappiamo che vuole fare questo passaggio da aggressivo candidato nelle primarie in trincea a candidato presidenziale pronto ad attaccare Hillary Clinton, e infatti ha insistito sul suo nuovo obiettivo, la sfida diretta con il candidato democratico. Hillary Clinton, tra l'altro, ha perso l'Indiana, ma ha abbastanza delegati per potersi garantire la nomination del Partito Democratico. Sentiamo adesso la voce della sconfitta, quella di Ted Cruz. Tonight, I'm sorry to say, the voters chose another path. We are suspending our campaign. But hear me now. I am not suspending our fight for liberty. Ecco, devo dire, c'era un'atmosfera piuttosto giù al comizio di Cruz. Il senatore del Texas dice: mi spiace dire che la strada per la vittoria si sia fatta troppo stretta per me. Gli elettori hanno fatto un'altra scelta. Questa sera concludo la mia campagna elettorale, ma non la mia battaglia per la libertà e per i diritti. Ecco, anche Cruz, l'ultimo che era riuscito a resistere l'onda dirompente di Trump, alla fine ha gettato la spugna. Trump, tra l'altro, che prevale su ben 17 candidati, erano partiti in 17 i repubblicani, e dunque devo dire che comunque a Ted Cruz va l'onore delle armi, perché non soltanto è sopravvissuto a Jeb Bush e Marco Rubio, che sembravano essere candidati temibilissimi, e però ha anche fatto molto meglio dei suoi colleghi Rick Santorum nel 2012, che si era già ritirato in aprile, e Mike Huckabee, che si era anche lui ritirato molto prima, nel 2008. Entrambi erano partiti con una vittoria in Iowa, proprio come Cruz, ma hanno poi esaurito la loro presa sugli elettori. Donald Trump is a Teflon candidate who is not affected by any of the things he said. Ecco, Trump, vi diceva, dunque stravinto in Indiana, e però ha anche fatto storia, perché è il primo non politico a garantirsi una nomination del Partito Repubblicano dai tempi di Eisenhower, che pure, voglio dire, era un generale a 5 stelle ed era il condottiero che vinse la guerra in Europa contro la Germania nazista. Del resto, nella storia americana ci sono stati moltissimi militari che sono poi passati alla politica. Pensiamo soltanto a John McCain. Ecco, John McCain, che fu prigioniero in Vietnam e che ha corso varie volte per la nomination repubblicana, addirittura vincendola. Ecco, però è anche interessante cercare di capire chi ha perso, perché qua abbiamo uno sviluppo storico proprio per questo outsider, questo immobiliarista, questo miliardario molto arrogante, molto narcisista, che ha scompaginato completamente i canoni della politica americana. E dunque, ovviamente hanno perso Ted Cruz, che vi dicevo si è ritirato a sorpresa lasciando il campo libero a Trump, ma hanno anche perso coloro che nel corso della campagna di queste primarie hanno sempre sottovalutato Trump, scommettendo ora su Bush, ora su Cruz, o peggio ancora all'inizio su Ben Carson. Hanno perso coloro che davano per certa, anche fino alla settimana scorsa, mi ricordo che discutevo con qualcuno, davano per certa l'ipotesi di una broker convention a Cleveland. No, non ce la farà mai Trump. La leadership alla fine riuscirà a mettergli i bastoni fra le ruote. Ebbene, la leadership non ci è riuscita e dal prossimo 18 luglio, quando si terrà la convention a Cleveland in Ohio, Trump diventerà di fatto il leader del partito repubblicano, convention tra l'altro a cui si dice che parteciperanno addirittura 1 milione di persone. E dunque chi ha perso più di tutti, devo dire, alla fine è proprio il partito repubblicano, che ha dovuto registrare un totale scollamento con la sua base ed ha dovuto accettare come suo leader appunto l'uomo che aveva sempre ostacolato, peggio, l'aveva boicottato, l'uomo che si presenterà con una piattaforma completamente diversa, soprattutto su tematiche sociali, da quella della destra repubblicana che finora aveva dominato l'agenda del partito repubblicano. Qual è stato l'errore? Ma l'errore è stato quello, come sempre succede in politica e dappertutto, di eccedere, di spostarsi, nel caso dei repubblicani, troppo a destra, di fare ostruzionismo politico totale contro per esempio l'amministrazione Obama, di prendere posizioni in materia sociale che comunque non sono condivise dalla maggioranza della popolazione, e dunque questi estremismi sono stati puniti, devo dire, è una lezione questa che dovrebbe servire per tutti. Today we have now won 17 primaries and caucuses. Rieccoci con la voce di Sanders. Vi avevo anticipato che Hillary Clinton a sorpresa ha perso contro Sanders in Indiana, ma lasciate che vi dia anche i dati, i risultati di ieri, perché in campo repubblicano Trump ha vinto addirittura col 53% contro il 36% di Cruz, dunque il distacco era enorme. Fra i democratici, la Clinton, che si trovava a un certo punto in vantaggio in Indiana, alla fine ha dovuto fare marcia indietro. Sanders ha vinto con il 52% contro il 47% di Hillary Clinton. Devo dire che queste dimostrazioni di debolezza della Clinton non l'aiuteranno nella corsa finale di novembre. Detto questo, per Hillary la nomination per il Partito Democratico è garantita, dunque, come avevo anticipato varie volte, la corsa finale sarà fra Trump e fra la Clinton, con un vantaggio della Clinton, 46% per la Clinton, 40% per Trump, questo su base popolare nazionale americana. Forse la Clinton potrebbe anche far meglio, il problema per Trump è che alla fine in queste grandi elezioni americane votano soprattutto gli indipendenti, sono loro che decidono le elezioni, e credo che sarà molto molto difficile per Trump convincere questi indipendenti che lui sarà la scelta migliore per condurre gli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americanoriguato.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di vittoria definitiva, direi con questa giornata veramente storica si chiude il capitolo delle incertezze per le primarie, e dunque vi propongo di Bob Dylan, Paths of Victory, sentieri di vittoria. Trails of troubles, roads of battles, paths of victory I shall walk. The trail is dusty, it might be road, it might be rough, but the better road's waiting, and boys, it ain't far off. Trails of troubles, the roads of battles, paths of victory we shall walk. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!